Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 7 aprile, buongiorno e bentornati a tutti a Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, oggi lo dico anche in arabo, salam aleikum, wa sahlan, a tutte e a tutti. E Paolo Billi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, oggi le nostre notizie ci parlano delle carceri nazionali, le carceri italiane, perché c'è un problema. Istituti di pena, mancano i direttori, a firma di Ilaria Sesana su Avvenire. Perché dovete sapere che su 190 strutture penitenziarie in Italia, 43 non hanno un dirigente. E questo è grave, aspettano la nomina di un direttore titolare. E perché a febbraio del 2021 sono 147 gli istituti penitenziari per adulti che hanno un direttore titolare sui 190 presenti in Italia. 31 hanno un direttore reggente, mentre per i restanti 12 non viene indicata la tipologia di incarico. Questo significa, tradotto, che in molti casi un dirigente è a capo di due o più istituti, con tutte le conseguenze che questo può portare. La situazione più grave, scrive Sesana, è in Sardegna, dove su 10 istituti di pena soltanto uno ha un direttore incaricato per quella sede. E per sanare questa situazione, il 5 di maggio dell'anno scorso, il ministro della giustizia aveva indetto, allora Bonafede, aveva indetto un concorso per l'assunzione di 45 nuovi dirigenti penitenziari, e una decisione importante, se ci pensate, perché l'ultima assunzione fu fatta ben nel 1997. Quindi quella del direttore è una figura veramente chiave, indispensabile, perché ha il compito di contemperare le esigenze di sicurezza, certamente, ma anche a quelle trattamentali degli istituti di pena, perché ricordiamoci che, stando all'articolo 27, le pene devono tendere alla rieducazione della persona detenuta. E l'insufficienza numerica dei dirigenti determina uno sbilanciamento chiaramente verso la sicurezza e verso i diritti da assicurare alle persone detenute. Quindi speriamo che questo passaggio venga fatto e nel più breve tempo possibile. E vi ricordo che andrà in onda l'intervista alla nostra direttrice del carcere bolognese della Dozza anche su questo. E lei ci parla del carcere come una casa da amministrare. Sarà interessante. Ma ora passo la parola a te, Ignazio, perché l'altro giorno abbiamo parlato di Turchia, sempre relativamente alle donne, poi di Egitto abbiamo parlato e oggi invece siamo in Tunisia. Tunisia, con il giornale La Presse, che ci informa di un'iniziativa importante di un centro di formazione destinato alla donna rurale, alla donna contadina. Ecco, qua è la nostra Nawal Assadawi, che abbiamo ricordato, madre, diciamo, delle femministe nel mondo arabo, sarebbe molto contento di questo. È tutto un progetto per migliorare il protagonismo professionale della donna. Allora uno dice, se beh, siamo in Tunisia, beh, la donna tenga le galline, poi stia dietro un po' di qualche cosa, di un po' di orto, faccia così. No, si fa una formazione di alto livello, anche tecnologico, per aiutare queste donne a sviluppare culture bio, importanti, quindi professionalizzarsi molto, culture sostenibili, ecosostenibili, cose molto avanzate. E la cosa interessante, insomma, anche ci fa onore, perché abbiamo tanti, come italiani, come Italia, addosso tanti problemi, ecco, tanti pecchi, tanti difetti, ma questo progetto Selma nasce da l'accordo tra una cooperazione internazionale italiana, che è installata in Tunisia, e l'Unione Nazionale delle Donne Tunisine. Quindi, diciamo, l'Italia mette il suo know-how, cioè le sue conoscenze, il marifa, per dirlo in arabo, quello che sa fare, e anche i soldini, e la Tunisia mette le proprie risorse e la voglia di fare di queste donne. Quindi accogliamo veramente. Abbiamo parlato di tante volte, abbiamo detto anche del Marocco, le donne che sono nelle centrali nucleari, nella sicurezza nucleare, eccetera. Quindi tante cose, ma anche nel campo proprio della vita delle contadine. E poi parleremo più avanti anche delle pescatrici del Marocco. Ma c'è una novità, perché tu finora hai sempre lanciato brani musicali di singoli e questa volta invece mi lanci un gruppo, vero? Sì, andiamo avanti con la Siria. Questo è un gruppo proprio bomba, Kul Nasawa. Io faccio pubblicità, andate a cercarlo. Chi può sul web, chi ci ascolta da fuori, merita. Un gruppo, una band che è nata nel 95 e ha veramente spopolato in Siria. Ha fatto nel 99 un celebre concerto per 3 notti di seguito suonava, c'erano migliaia di persone ad ascoltarci, quindi una band da seguire, Kul Nasawa, siamo tutti uguali, che ci cantano, Oyonik, i tuoi occhi. Siamo sempre su Liberi Dentro Edu Radio, sulle note di Tuoi Occhi di Kul Nasawa. Siamo sempre con te, Ignazio, con il Galateo arabo. E a me soggiunge una domanda, perché si dice, c'è un detto comune che dice: ne ferisce più la lingua che la spada. E allora, parlando di dialogo, perché? Perché è importante calibrare le proprie parole? Ecco, bisogna dire che il mondo arabo, il mondo islamico, le città dove io ho vissuto, Damasco, Ramallah, il Cairo, beh, vivono sulla parola, si sta insieme, altro che guardare il telefono, adesso lo guardano anche loro, ma poco, si sta insieme, la notte si sta insieme a chiacchierare, quello è il bello delle notti di Damasco, stare insieme a chiacchierare, però bisogna stare attenti perché si può ferire con la parola. Allora, viene il nostro Galateo, tarrib fi iqlal min al kalam, cioè desiderare di dire poche parole calibrate. Dice, sapendoli, anna kathratuhu rubba matakunu sababan fil uqul fil ithm, sapendo che più si moltiplicano le parole, più si rischia, ecco, di dire qualcosa che non va, e lo sappiamo bene. E quindi c'è un detto molto pesante che dice zarzarun, si chiamano così in arabo, zarzarun, si capisce, sono i chiacchieroni, ma quelli che poi spargono anche come semi, per esempio la maldicenza, namima. Quindi guardarsi da queste cose, pesare le parole sempre sulla bilancia. Grazie Ignazio, e ora sempre dialogando con te Paolo. Ieri ci siamo lasciati su questa immagine un po' evocativa delle orme, dei passi dei figli, ma cosa dire allora del rapporto con padri e figlie invece? È ancora molto più complesso. Allora, lavorando a Pontremoli, dove c'è l'unico istituto penale femminile in Italia, ci sono soltanto ragazze, e sono ragazze soprattutto provenienti dal mondo Rom o da quella che è stato i paesi dell'ex Jugoslavia. Sono tutte ormai di seconda, se non terza generazione, quindi nate in Italia, che parlano molto Italiane, bene sì. l'italiano, sono italiane a tutti gli effetti, però hanno, come dire, modi di vita ancora estremamente tradizionali, vivono sempre nei campi e diciamo, sono minoranza quelle che le famiglie che hanno, come dire, accettato insediamenti diversi. E con queste ragazze non è, sin dall'inizio pensavo che non fosse semplice, lavorare. E poi in realtà sono stato smentito perché la disponibilità in tutti questi anni del lavoro con queste ragazze è sempre stato molto, molto forte, partendo però da un fatto che loro chiedevano, telefonavano a casa chiedendo il permesso di fare teatro. Quindi la prima cosa, pur essendo poi ragazzine di 16 anni, già sposate, già con figlioli, la prima cosa era chiedere al marito o al padre, in tutti i modi alla figura maschile, il permesso. Spesso la figura maschile diceva no, e loro però tranquillamente facevano l'attività teatrale. E, tra l'altro, una caratteristica di Pontremoli è che il magistrato di sorveglianza e la direzione mi ha sempre permesso di portare fuori queste ragazzine nell'ultimo periodo, e gli spettacoli si fanno nel teatro di Pontremoli, quindi loro per 10 giorni escono con me fuori dal carcere, e tenete conto che il carcere è a 350 metri dalla stazione di Pontremoli, e di conseguenza sarebbe estremamente facile evadere, nel senso prendo su il primo treno e vado via. Non è mai successo, e questo, come dire, per me è una cosa importante. Ma tornando al discorso del padre, questi padri in realtà anche con le ragazzine viene fuori che sono più che le figlie perdute, sono i padri perduti, sono i padri persi, sono i padri che sono afasici ormai, e che questa immagine del padre disperso, e questo, come dire, fa pensare molto. Con le ragazze abbiamo lavorato sulle figlie in Shakespeare, raccogliendo dalle opere di Shakespeare alcune figure femminili, lavorandole assieme a loro e trasformandole. Quindi il mio lavoro è sempre prendere un'altra storia, attraverso un'altra storia raccontare di sé, e mai raccontare direttamente. E quindi questo gioco che si instaura su dei temi assai delicati, dolenti, e giocare sempre con grande, grande leggerezza. E per chiudere, un altro elemento è che questa tensione del padre è sempre di chiudere le figlie, e loro sono chiuse dentro, quindi il fatto di ritrovarsi incarcerate dentro una struttura, ma provenendo da mondi in cui le famiglie tendenzialmente le chiudono, ecco, il teatro diventa l'occasione per rompere queste e aprire queste porte. Bellissimo, infatti ritorneremo su questi aspetti anche nelle 2 giornate che ci restano, lavorando anche sul rapporto che hai tu con le storie delle persone che ti trovi davanti, sarà interessante. E allora adesso approfitto io per lanciare un brano, perché mi ha colpito una cosa che hai detto, queste figlie che chiedono il permesso ma poi fanno a modo loro, e allora io lancerei Elisa a modo tuo. Grazie. Ciao a tutti, io sono Fabio. E io Lorenzo. Oggi intervistiamo Enza Negroni, la regista del film La prima meta, che racconta la storia del Giallo Dozza, la squadra di rugby del carcere di Bologna.

da chi vive per chi vive il mondo del carcere. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi a Libri Dentro e Duradio per qualsiasi richiesta o domanda sui nostri canali social, Instagram e Facebook. Ciao! Ciao! Dopo la pillola cura di Fabio e di Lorenzo per Tecnotrade, in particolare per ASP, città di Bologna, noi ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento ore 9 sulla radio, ore 10.30 su Teletricolore, e vi ricordo sempre il laboratorio di oggi pomeriggio, oggi che è mercoledì, con l'equipe sanitaria del carcere alle ore 17 sul canale 636 di Teletricolore. E scriveteci liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna. Grazie a Paolo Billi per essere stato con noi, grazie a Ignazio De Francesco e grazie al nostro tecnico Matteo Parisini, ma in particolare a tutti voi ascoltatori che ci seguite. Buona giornata, a domani.